7 minuti di questo 26 luglio, è mercoledì, siamo a metà settimana, tornando in diretta dopo Altri Suoni, la rubrica letteraria di Radio Città Fujiko. Merita un caloroso ringraziamento Silvia Albertazzi per la co-conduzione, già in vacanza giustamente. Riprenderemo regolarmente il Voltiamo Pagina dal primo mercoledì di settembre, però mi sembra giusto e oltretutto con grande piacere mandare saluti e attenzione per l'eccellente lavoro portato da Silvia a Radio Città Fujiko. Tutto questo è un captio benevolenti, se vogliamo, no, non esageriamo, anche perché l'autore che vado a presentare non è esattamente il preferito di Silvia, non che non abbia, sapete, lei è molto precisa, a volte anche severa, quindi il mio entusiasmo spesso viene fermato, mentre oggi invece vorrei dar via libera al mio entusiasmo per questo scrittore, che per me è un grande scrittore. Ecco, questi invece stanno decollando, sentite. Allo stesso modo ringrazio Libreria Ubi, che sì, questo libro che veramente è una lettura d'agosto e che qualità lo potete o lo potrà ritirare la vincitrice o il vincitore presso la Libreria Ubi Quirnerio di Bologna in Virnerio 27. Allora, iniziamo con una piccola biografia per William Boyd. Sì, conosco quest'autore, lo seguo nelle pubblicazioni Beat, che è il tascabile di Neri Pozza, e per la stessa Neri Pozza da diversi lavori, ne cito alcuni che sono capolavori: Inquietudine, Ogni cuore umano, Aspettando l'alba, altro lavoro bellissimo, Una dolce carezza, che è stato il lavoro che mi ha fatto conoscere William Boyd, L'amore è cieco, e potrei aggiungere anche Così ci sto, ecco, Le nuove confessioni, ecco, un altro lavoro di Boyd che mi è piaciuto tantissimo, come del resto quando si dice di lui leggete tutto, confermo. Anche La lista della spesa, secondo me, per questo autore è da tenere presente. Si presenta con questa strana biografia e ci fa conoscere un avventuriero nato nel 1800, proprio inizio secolo, e subito resta orfano, risponde a nome di Cashel Greville Ross ed è un protagonista veramente romantico, è l'idea del romantico, vive tutto il XIX secolo, vive tutto l'Ottocento e sarà un'ottima occasione per conoscere tutti i percorsi di questo secolo attraverso questo avventuroso protagonista. Il lavoro è Edizioni Neri Pozza, il titolo è Il Romantico, attesi da parte mia, ma ovviamente cercherò di far conoscere a un pubblico attento l'autore William Boyd, spesso presente, perché come ho detto cerco di prendere un po' tutte le sue uscite. In Italia è Neri Pozza, la traduzione e i percorsi di pubblicazione. E iniziamo allora a parlare di William Boyd. Dove nasce William Boyd? Non ve lo dico, che perché sarete voi a darmi delle risposte a breve, ma il quiz lo daremo più vicino alla pubblicità, adesso è ancora un po' prestino. Parleremo di questo autore che, vi posso dire, ottiene uno dei primi riconoscimenti come scrivendo un saggio, giovanissimo lo scrive, scrivendo un saggio nel 1975 a Oxford sul pensiero del romantico Percy Bysshe Shelley. E vi dirò poi chi è, già Shelley vi dice qualcosa al cognome? Earth. C'è dei For Hero per Star Chasers in questo remix a cura di Fotek. Sentite le lame come note taglienti e beat nel drum and bass. Percy Bysshe Shelley, già dal cognome Shelley, è il marito di Mary Shelley, è stato uno dei poeti romantici, poi tra l'altro sfortunatissimo, più importanti per quanto riguarda la letteratura inglese. Lui un poeta dal pensiero e dal romanticismo veramente molto forte, molto molto incisivo, toccante, di una sensibilità, uno degli autori che fra l'altro per quanto riguarda la letteratura inglese è da tenere assolutamente presente. Mary Shelley è l'autrice dei libri più belli, non inteso come libro, poi è passato ovviamente a essere horror, ma anche questo è una storia d'amore bellissima ed è Frankenstein. Lavora per giornali di sinistra, non Percy Shelley, ma William Boyd come The New Statesman, e consegue nel frattempo diversi riconoscimenti per questa importanza e per questa sensibilità nella narrazione, nella scrittura. È stato collocato al primo posto tra gli scrittori di una nuova generazione seria e dotata. Lui è molto particolare, lui resta comunque uno scrittore, seppur di una raffinatezza, secondo me uno scrittore pop. Certo che Alza l'asticella è un pop molto ricercato, e se mi permettete il termine, di una letteratura pop. La sua vena è chiaramente legata al sentimento in ogni sfaccettatura, la capacità che non è immediata di abbinare al periodo storico, di far conoscere la storia attraverso i protagonisti da lui analizzati e da lui raccontati. Ricordo nella Dolce Carezza conoscere tutto il Novecento, nel romantico conoscere invece dal romanticismo che nasce circa nel 1770 tutto il percorso dell'Ottocento, del XIX secolo. Questo protagonista resta orfano, infante, in fasce addirittura. Una disgrazia porta ad annegare, porta ad affondare i due genitori, e quindi cresce vicino a una zia che in realtà racconta delle verità o delle bugie, questo non si sa, ma lo intenderà poi il lettore nei percorsi di vita di questo giovane protagonista, che vivrà, non so, appuntamenti con la storia fondamentali, ad esempio la battaglia di Waterloo. Siamo nel 1815, sto andando a memoria, quindi posso sempre sbagliare, scusate gli strafalcioni. È in viaggio costantemente, da quel momento va a caccia di avventure stravaganti, sperimenta mille vite, dalla frenetica ricerca ovviamente di se stesso, sempre in movimento. Questo è interessante, per quello che può essere anche l'esperienza personale nei luoghi non luoghi, nei posti, nel viaggio per ricercare noi stessi, è un passato e una domanda che costantemente ritorna, cioè l'introspezione di se stessi, la ricerca di se stesso che, nonostante sia contornato da mille eventi, anche tante storie d'amore e di più, è sempre costantemente smarrito. Viaggiatore, soldato, amante, padre, amico di celebri poeti, non è che un pochettino William Boyd si è voluto riconoscere in questo suo, perché no, eroe, amico di poeti. Ad esempio viene citato Byron in questo libro. È anche un po' un truffaldino, un lavoratore, un contadino, un esploratore, un poeta. Si troverà sempre e costantemente, e questo è importante, nel luogo e nel momento in cui il secolo cambia qualcosa, accelera la corsa, accelera e cambia la storia. Lui annota con cura tutto ciò che vive da protagonista, lo sa ovviamente raccontare. La penna felice di William Boyd, la copertina è molto bella, una città, la riva di un lago e questo protagonista su una mongolfiera che sorvola questo splendido panorama. Ora è il momento dei TV on the radio. Crying è il brano dal loro disco più bello secondo me, Dear Science. A tra poco. Death on the masthead, hold your breath through late break and disaster. Makes a loser of the trend. Codes, feelings, meant global, like coke in the nose of the noble. Riots in the rain, she's on fire in the music tanks with no red lights in sight. Ecco, un po' faccio coming out, intanto ringrazio Sergio che ne ha scritta una delle sue. Buongiorno Sergio, grazie. No, un attimo di stacco musicale, tanto vi ho lasciato in buona compagnia con i TV on the Radio, formazione di post rock, quindi veramente molto molto carica di talento. Allora, piccolo coming out, di solito le vacanze, il mese di vacanza, puoi portarti qualche libro in più da leggere. In effetti io parto, confesso, carico di libri, però alla fine do importanza a un libro. Ecco, se anche voi avete questa modalità di lettura, date importanza a questo. Io ormai sono già oltre la metà, in questi giorni lo finirò, sono già certo, per quello che sto leggendo, che è un libro, poi un nome è una sicurezza, William Boyd, che è una certezza letteraria. Però ecco, se non lo conoscete o se non avete ancora idea per il libro per le vacanze, ecco, ne avete la possibilità per il consiglio e, perché no, magari con il quiz di portarlo non solo nella vostra biblioteca, ma anche in valigia per le vostre vacanze. Bravi loro, sempre TV on the Radio. Oscurato ingiustamente, secondo me, da altri giganti della letteratura inglese, come ad esempio Ian McEwan, come Julian Barnes. È che io William Boyd l'ho conosciuto al contempo con Julian Barnes e li metto allo stesso livello. Qui Silvia Albertazzi mi darebbe un 4 come voto, però resto convinto di questa mia affermazione. Lui era amico di Kingsley Amis, papà di Martin Amis, a proposito di grandi scrittori inglesi che, come ho detto, hanno portato un po' di ombre sopra William Boyd, perché i tre che ho citato, Martin Amis, Julian Barnes e Ian McEwan, restano questi tre pilastri nella letteratura inglese. Beh, io aggiungerei anche William Boyd. Inglese? Sì, certo, inglesissimo in tutto e per tutto, ma il papà lavorava in giro per il mondo e lui nasce in Africa, in uno stato dell'Africa. E qui siamo al quiz. Ta-dan! Sentite che bello il brano degli FC Kahuna, Machine Say Yes. La capitale di questo... Il quiz è molto facile, è una questione di velocità, ovviamente. La capitale di questo stato è Accra, scritto A-C-C-R-A, Accra. Se mi dite lo stato che ha questa capitale, dove è nato William Boyd, io farò in modo che da adesso possiate andare alla Ubic a ritirare il romantico di William Boyd. La capitale, Accra, A-C-C-R-A. Vi ho fatto anche lo spelling. Lì è nato William Boyd, papà diplomatico, papà lavorava all'estero e quindi lui è nato in questo stato africano. Qual è? Me lo scrivete e avrete il romantico William Boyd nei Ripozzi. Oh, la risposta, però potete continuare a scrivere, sapete che arrivano sorprese. Beh, questo quiz sarebbe stato veramente, avrebbe risposto in zero secondi una giovane ascoltatrice appassionata di geografie, bandiere, capitali per tutto il mondo, eh? E ne approfitto per salutare Anna. Vincitrice o vincitore? Termina il brano degli FCK, una pubblicità, si ritorna in diretta e poi sveleremo appunto sia il quiz che il vincitore o vincitrice per l'ultima puntata del Voltiamo Pagina stagione 2022-2023. In palio, grande scrittore, William Boyd. Libro da leggere per il mese d'agosto, assolutamente grande qualità, Il Romantico, edizioni Neri Pozza. Yeah. dirigere questa orchestra in rientro, questa musica easy listening anni 70 che sembra la colonna sonora appunto di quei film erroneamente chiamati B-movie, ma che per me sono veramente dei capolavori, anche se certo non possiamo abbinare un narratore musicale come Lalo Schifrin a certe pellicole. Tra l'altro lui ha scritto ovviamente colonne sonore, Bullet ad esempio, una delle più famose. Questo invece è un disco insieme a Pepper Adams, insieme a Hubert Lowe al flauto, è un'orchestra veramente molto forbita da All Star per CTI Record. Il disco si chiama Vedova Nera, Black Widow. Accra è la capitale, perdonate la R, Accra è la capitale del Ghana. E per quest'ultima puntata 2022-2023, precisissima, puntualissima, abbiamo una vincitrice, Maria Carla. Grazie, sarei contattata a breve per indicazioni, poi già da adesso, ma adesso insomma è un po', però per ritirare il tuo premio a Libreria Ubic, Irnerio 27 Bologna, Libreria Ubic Irnerio, William Boyd, Il romantico, Neri Pozza. Maria Carla, buona lettura, te lo godi questo libro. Sergio che scrive, io di geografia non capisco un'acra, bene la risposta anche di Luigi, buongiorno Luigi, che frettolosamente dice Sudan e poi lui stesso si accorge di aver sbagliato, scusa sono andato di fretta un po' così a memoria, grazie comunque Luigi. È arrivato subito dopo la risposta di Maria Carla una risposta esatta via SMS, non è firmata la risposta esatta, però sei arrivato, guarda, neanche un minuto, qualche secondo dopo la vincitrice, per cui ti ringrazio tantissimo e ti auguro una buona giornata, ascoltatrice o ascoltatore anonimo, attraverso l'SMS con la risposta esatta. Il Ghana, sì. In una località imprecisata della Scozia all'alba del 14 dicembre 1799. Quello stesso giorno l'ex presidente degli Stati Uniti d'America George Washington morì nella sua casa a Mount Vernon in Virginia. Non credo vi sia alcun nesso fra i due eventi. Domani compirò 82 anni. Così comincia l'incompiuta, disordinata e in qualche modo sconcertante autobiografia di Cashel Greville Ross, 1799-1882, giunta in mio possesso alcuni anni fa insieme ad altro materiale. Consiste in un centinaio di pagine di memorie scritte a mano datate dicembre 1881 e in fasci di lettere lettere ricevute, bozze di lettere inviate, disegni, mappe, cartine, qualche fotografia, alcuni libri pieni di annotazioni, appunti a margine, piccoli dipinti e incisioni, silhouette e qualche oggetto, una scatola con esca, un accendino, una palla da moschetto, la fibbia di una cintura, una piccola ciocca legata con un nastro di seta sbiadito, alcuni dollari d'argento, un frammento di anfora greca e altro ancora. Qualche piccolo ma curioso tesoro è tutto quel che resta della vita di un uomo. È l'unica traccia concreta del suo passaggio su questo pianeta, la storia frammentaria della sua esistenza terrena. Kasher Greville Ross cominciò a scrivere la propria autobiografia, ma non arrivò mai a concluderla. La nota di introduzione, si scrive lui stesso questa prefazione, William Boyd, nota dell'autore, apre così il lavoro che è stato concluso nel febbraio del 2022, arriva in Italia grazie a Neri Pozza, così comincia questa biografia tratta fantasiosamente da alcuni reperti, alcuni ricordi, alcuni momenti, alcuni viaggi del protagonista così romantico che vi ho appena descritto. È una buona opportunità per conoscere anche alcuni dettagli dell'Ottocento, alcuni snodi fondamentali. È una vita, è uno di quei libri che quando siete immersi, perché vi immergerà nella lettura anche la capacità narrativa di William Boyd, assolutamente splendida, quando qualcuno giustamente poi si avvicinerà e guarda che avrei bisogno, scusa ti posso dire, la risposta vi assicuro che sarà aspetta, arrivo al punto. Un brano scritto da Wayne Shorter e interpretato da Christian McBride in questo Number Two Express per quanto riguarda la produzione di Verve Record. Ecco, siamo arrivati alla conclusione o quasi del nostro Voltiamo Pagina, ultima puntata 2022-2023. Maria Carla ha già avuto anche qualche anticipazione per quanto riguarda l'incipit, i saluti e i ringraziamenti a Libreria Ubic, dove potrai ritirare il tuo premio, li ribadiamo in quanto assolutamente meritati, come a Silvia Albertazzi il caro saluto dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori della rubrica letteraria di Radio Città Fujiko. Anche a voi per l'attenzione, per aver partecipato al quiz, per aver ascoltato il consiglio per il mese di agosto. Ah, ritornerà poi anche il video sul nostro sito www.radiocittafujiko.it. Teoria, piano Fender, al contrabbasso il frontman di questa formazione Christian McBride, al contralto troviamo un talentuoso Kenny Garrett, aggiungo anche altri musicisti quanto mai importanti, Kenny Barron, Jack DeJohnette per la batteria. Domani non ci sarà, e lo dico veramente perché io sono un abitudinario e per me alle 7 lunedì venerdì è buongiorno, ben sintonizzate, ben sintonizzati, quindi che domani sia giovedì e non si possa partire in questo modo, per me veramente non è certo qualcosa di piacevole, tutt'altro. Domani non sarà in frequenza il Breakfast Club per motivi tecnici. La nostra emittente sta sviluppando progetti per la diffusione del segnale in modalità più estesa, ancora più presente, per una maggiore copertura, per una crescita. Infatti ne siamo anche molto contenti. Tutto ciò tra l'altro è grazie a voi, eh? Non vi do i dettagli, io faccio tanti giri di parole quando devo spiegare gli aspetti tecnici, perché come ben sapete, da quando ho chiuso col far l'elettricista o poi basta, so giusto accendere una lampadina, mettere una presa, poi finisce lì, basta, adesso mi occupo di altro. Quindi perdonate se non do dei dettagli, posso dire che è un motivo di crescita del quale siamo tutti molto molto carichi di entusiasmo, per cui per motivi tecnici domani non ci sarà il Breakfast Club. Vi posso dire che venerdì e come ci sarà, avevo pensato, ma come, trasmettere lunedì 31 luglio poi andare in vacanza? No, lunedì 31 luglio i magazine e i saluti ci saranno, e come, anche in virtù del fatto, ma come, non ci sono giovedì? No, lunedì invece voglio esserci, per cui le due puntate, quella di venerdì con la rubrica In Scena, uno spettacolo di Entroterre, già ve l'ho anticipato, a Ozzano dell'Emilia, dopodiché lunedì saluti e magazine. Ora, come abbiamo iniziato, terminiamo la playlist. I Galliano, Little Ghetto Boy. Everything's gonna be better. Fa così, a un certo punto ho canticchiato anche in maniera sgrammaticata, però sapete che mi piace seguire a modo mio le parole delle canzoni nella playlist del Breakfast Club e non solo. Appuntamento a venerdì quindi, eh? Grazie a te Enrico, ma ne metto magari anche altre, perché per me Galliano è tutti i tempi. Mick Talbot, fuoriuscito dagli Style Council, e con questo lavoro, questo è il loro primo album. Buona giornata Enrico. Now we were played, swore to help each other when born into the world. The different mothers, countries we were held. The spirit become a both a black and white. Mine learned to live while yours had to fight. Through the dice to see how wise our life. But now we relieve the people from strife. Maybe be the aim for all the happy people. believe in others and what we will do. Others will have to believe in us too. See, every ghetto child and every ghetto land has a sister, brother, don't you misunderstand. The power to save from Gambia to Manila. This is a song with hope for you, not Abraham Zelina. Ghetto boy, little ghetto girl, little ghetto hole in the ghetto world. The world is a ghetto, nothing ever changes. As the world revolves, we should rearrange. Everything's gonna get better. Everything's gonna get better. Get better. Speriamo. Beh, grande la musica dei Galliano, la conclusione. Ah, ricordo, beh, domani poi è uno. Vediamo se è l'ultimo appuntamento. Ho fatto questa esperienza per tutto il mese di luglio, nonostante la tenera età, l'alopecia, la pancia, ormai la barba bianca, più simile a un babbo Natale in pensione che a un DJ. Ho voluto provare, vista la presenza, la richiesta assoluta di vinile, ho voluto fare questi incontri e questi DJ set al Comini Express in via del Battiferro, in questo spazio che, come vi ho detto, a me ricorda tantissimo, perdonate, però le feste dell'unità di quartiere degli anni 70. Ecco, poi a seguire del DJ set ci sono sempre concerti di grandissima qualità. Giovedì ci sarò alla sera dalle 19, per chi vuole ovviamente siete super benvenuti. Allora, questa esperienza 4-5 serate fine mese giugno e tutti i giovedì del mese di luglio mi ha talmente così, mi ha veramente stato un grande, è un grande piacere. Perché no, magari faccio qualche rientro in agosto, adesso vediamo. Per adesso facciamo finta che sia l'ultima, quella di domani, poi si vedrà. Dalle 19 Comini Express, via del Battiferro. Noi ci sentiamo venerdì. Ci vediamo, per chi vuole, domani alle 19. Ti aspetto, Enrico. Grazie per l'attenzione, un buon ascolto. A breve sarò anche col direttore in rassegna stampa, per cui adesso mi rilasso un attimo, che bisogna essere concentrati. Rassegna stampa dalle 9.30, domani no, colazione, venerdì sì, colazione alle ore 7. Un caloroso abbraccio dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti. December.